Incontri di Gianfranco Fabi. Ultime battute del flauto magico di Mozart, dell'interpretazione nella direzione di Claudio Albado. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Angelo Guerini. Buonasera a tutti. Buonasera Angelo Guerini, editore, fondatore della casa editrice Guerini Associati, ma prima di parlare di editoria parliamo del flauto magico, parliamo di Mozart, parliamo di Albado. Perché l'appassiona questa musica? Ma questa musica in particolare mi appassiona, beh, innanzitutto perché è bella. Mozart è sicuramente al di sopra di ogni sospetto. Al di sopra di ogni sospetto, in particolare questa esecuzione mi ha subito affascinato la prima volta in cui ho avuto l'occasione di ascoltarla, per la straordinaria nitidezza del fraseggio musicale che credo solo Albado sia riuscito in quest'opera come in altre opere a raggiungere. E poi si parla di bellezza e saggezza. In queste note finali. Infatti. Ecco, vorrei precisare che questa mia predilezione non ha ascendenze massoniche. Sappiamo che il flauto magico è un'opera massonica e anzi qualcuno sostiene che Mozart sia stato avvelenato perché avrebbe svelato rituali massonici in quest'opera. Sulla morte di Mozart, se posso dilungarmi un attimo, perché ritengo sia una questione della massima importanza per il nostro lavoro, si sono intrecciate le interpretazioni più fantasiose, alcune anche di alto lignaggio. Certo. Microdrammi di Pushkin narrano di questo dissidio tra Mozart e Salieri, da cui poi ha preso spunto anche il film Amadeus. Esattamente, poi, certo. Magnifico film, fantastico film, davvero davvero bellissimo, e credo abbia contribuito a far conoscere la musica, la bella musica, più di infinite trasmissioni. La realtà, secondo alcuni storici, è molto diversa. Cioè, Mozart non è stato avvelenato, non è stato avvelenato da Salieri, non è stato avvelenato perché ha svelato rituali massonici, semplicemente è morto di inedia. Si è lasciato morire. Allora, pensare a un artista della fama, della creatività, come Mozart, che muore di fame, sostanzialmente, certo. Di fame, è una cosa che grida vendetta. Anche perché un'opera, anche come il flauto magico, è un inno alla vita, un inno alla sfida, un inno all'amore, un inno a tante cose positive del mondo. Magari sentiamone ancora due battute. Con piacere. La sentiremo ancora a lungo, ma non vogliamo fare concorrenza ad Armando Tordo, no, che ci ha appena lasciato, e quindi parliamo di Angelo Guerini, sì. Editore, Guerini Associati, la casa editrice. Come le è venuto in mente di fare l'editore e non il direttore d'orchestra? Ah, beh, guardi, una bella domanda. Da ragazzo, sì, ho avuto la tentazione di studiare musica, anche perché provengo da un'umile famiglia in cui vi è sempre stata una grandissima passione per la musica. Semplicemente ho ritenuto di non essere all'altezza, quindi ho scelto altre strade. Accanto alla musica, la passione è sempre stata quella della lettura, e quindi gioco forza, direi, mi sono ritrovato a fare questo mestiere, che è un mestiere... Da quasi 30 anni che fa questo mestiere. No, questo mestiere lo faccio da 40 anni. 40 anni, in realtà. Quindi... La casa editrice c'è da 27 anni, quasi 28. Ho iniziato da ragazzino, insomma, molto giovane. Sono andato a studiare a Padova nel lontano 72. E nel 75, ricordo ancora, primo aprile del 75, sarà un segno del destino, primo aprile, ho iniziato a lavorare in una piccola cooperativa libraria universitaria, piccola ma prestigiosa, si chiamava Cleup, si chiama tuttora Cleup. Da lì mi sono trasferito a Milano, ho lavorato per 7 anni, dall'80 all'87 come responsabile delle edizioni Unicopoli e poi nell'87, quindi sempre in ambito sostanzialmente di saggistica universitaria, accademica e così via. Nell'87 mi è venuto questo trip. Ecco, guardando indietro è cambiato il mondo in questi 30 anni, in questi 40 anni, cioè è svolto il mondo dell'editoria. Sì, assolutamente sì. È cambiato, ma direi che è cambiato innanzitutto il mondo complessivamente, perlomeno per la parte che più direttamente ci riguarda, cioè il nostro paese, in parte forse anche l'Occidente. La differenza che io credo di notare, più significativa, più consistente, è il clima. Negli anni Ottanta il clima era di, forse perché eravamo più giovani, Certamente. il clima era di speranza, era di proiezione verso il futuro, ci inoltravamo in questo radioso futuro, così allora ci appariva. Oggi siamo un po' tutti ripiegati su noi stessi. Anche perché abbiamo avuto forse due elementi che ci condizionano molto. Da una parte la crisi economica, che Certo. sappiamo, e dall'altra la rivoluzione tecnologica. E Esattamente. tutte e due hanno investito pesantemente il sistema dell'editoria. Secondo me lei ha colto esattamente la condizione in cui ci troviamo. Il nostro settore, dell'editoria liberale, ma dell'editoria in genere, è stato, devastato, investito in modo drammatico da questi due elementi. Da un lato la crisi economica, che sicuramente pesa molto Certo. anche nel nostro settore, dall'altro però la profonda modificazione negli stili di consumo, nell'esposizione mediatica, che credo tutti noi possiamo misurare direttamente sulla nostra pelle, cioè Assolutamente. la vediamo in atto nei nostri comportamenti. Per esempio, io noto su me stesso che ho sempre maggiore difficoltà a quasi un senso di tedio, di noia, ad affrontare testi più lunghi delle due cartelle. Superate le due cartelle, uno E dice, un ma libro di solito ecco, è è un più di po' due più lungo dei cartelle. due cartelle. Mi è capitato, se posso fare questa piccola divagazione, qualche giorno fa, parlando con un autore, mi diceva, no, perché questo libro, un pamphlet, e si riferiva a un libro di 250 pagine. Allora, 20 anni fa era un pamphlet, un libro di 250 pagine, Adesso è oggi sarebbe un un'enciclopedia. tomo, un'enciclopedia. Ecco, indubbiamente. Quindi questa difficoltà, però voi affrontate questa difficoltà mantenendovi fedeli a, mi sembra, a quella che è stata l'impressione originaria, che direi spiegare come mai. Sì. Che Filosofia e cultura d'impresa. Che ci azzecca? ci azzecca, esatto, credo che sia la domanda giusta. Ma la cifra che ci ha sempre caratterizzati è fondamentalmente l'idea che il sapere sia fondamentalmente unitario, che le distinzioni disciplinari siano utili e opportune, ma che non siano assolutamente utili barriere disciplinari, barriere tra le varie discipline. L'altra considerazione più specifica rispetto ai rapporti tra filosofia e management è il fatto che, beh, quando parliamo di management parliamo di organizzazioni, Certo. parliamo di fenomeni umani e quindi servono le scienze umane per interpretarle. Mi rendo conto che questo, anzi, all'inizio della nostra attività, questa predilezione per due discipline considerate così distanti, sembrava strana. Qualcuno avrà pensato anche a un colpo di sole, forse. Però, ecco, secondo me ci sono dei legami profondi E quindi molto non sono due importanti. filoni editoriali, ma sono, diciamo, degli interessi che si intersecano Sì. anche nella scelta dei libri. Tra l'altro, voi state presentando, avete presentato una nuova collana, ne parliamo magari nella seconda Sì, parte, che si chiama Next, che è una dedicata nuova casa editrice in alla nuova realtà, è casa una nuova editrice casa editrice, addirittura, sì, quindi ancora più dedicata pazzi, alla cultura manageriale. Però sì. nel filone tradizionale c'è questo accostamento tra le scienze umanistiche e la realtà poi economica, quindi c'è una grande attenzione per l'economia. Assolutamente sì, attenzione per l'economia che riguarda sia l'ambito strettamente manageriale, ma riguarda anche l'ambito più specificamente economico. Una delle iniziative cui tengo maggiormente, che forse più ci caratterizzano, è la pubblicazione che procede oramai da quasi, anzi da 20 anni a questa parte, del rapporto curato da Mario De Aglio sull'economia globale dell'Italia. tutti gli anni da 20 anni, lo pubblichiamo ed è, devo dire, una visione di grande respiro che De Aglio riesce a mettere. Possiamo anticipare il fatto che la settimana prossima parleremo proprio con Mario De Aglio di questa iniziativa. Incontri. Ancora con il flauto magico, quest'opera indimenticabile di Mozart, nella versione diretta da Claudio Abbado, che tanto appassiona il nostro ospite di questa sera, dottor Angelo Guerini, fondatore della casa editrice Guerini e Associati. Riprendiamo appunto l'incontro, riprendiamo questo nostro dialogo. Abbiamo parlato nella prima parte di come è nata la casa editrice, di questo interesse che si intreccia molto tra filosofia e cultura di impresa, che ha guidato e che continua a guidare la casa editrice. Abbiamo accennato anche a quello che il dottor Guerini diceva, la nascita di una nuova edizione, di nuove edizioni. Ci spiega cosa vuol dire. Sì. Allora, abbiamo dato vita attraverso uno spin-off del comparto manageriale a una nuova casa editrice che abbiamo chiamato Guerini Next, per indicare anche questa proiezione sul futuro. L'idea nasce da un'amicizia di lunga data che mi lega al dottor Maurizio Messina, collega nell'attività editoriale, con cui abbiamo condiviso molte attività, molte battaglie. Che uno degli associati, Guerini e Associati, ci sono degli amici che... Sì, diciamo che lui è arrivato dopo gli associati, quindi ecco, non fa parte del nucleo originario. La sua esperienza più recente, durata credo una 15 anni, è stata la direzione di McGraw-Hill Italia, di cui è stato amministratore delegato a lungo. Perché questa scelta? La prendo un po' lunga, se mi è consentito. Allora, prima si faceva cenno all'impatto della crisi, che è devastante sull'attività editoriale, devastante complessivamente sulla nostra vita, sull'esistenza di tutti. Molto spesso però ci si limita, parlando di crisi, a riferirsi all'impatto sul dato meramente materiale. Con la crisi sono venuti meno gli investimenti infrastrutturali. E si dice, beh sì, quando poi, auspicabilmente, prima o poi arriverà la ripresa, il Paese, non avendo fatto in tutti questi anni investimenti in infrastrutture, si troverà in condizioni di grande svantaggio rispetto ai competitori. E questo è verissimo. Certo. Ma non basta. Non basta. Questa considerazione, per alcuni aspetti pari pari, è applicabile agli investimenti in capitale umano, non solo in capitale fisso. Il dato cui assistiamo, che a mio parere è ancora più drammatico, cui abbiamo assistito, cui continuiamo ad assistere in tutti questi anni, è il forte disinvestimento nella formazione, nell'istruzione, nel capitale umano. E i gap che così si generano, a mio parere, sono ancora più difficili da recuperare rispetto ai gap prettamente infrastrutturali. La nostra scelta, fortemente controcorrente, fortemente controtendenza, e questo però è un'altra cifra che caratterizza un po' l'attività della casa editrice fin dalle sue origini, è quella di dire, beh signori, secondo noi c'è questo grande problema. Noi, anche come forma, se si vuole, di responsabilità sociale rispetto all'ambiente in cui operiamo, in cui viviamo, crediamo sia necessario, anche da parte nostra, dare il nostro contributo, piccolo, grande che sia, alla ripresa di processi di formazione strutturata, di autoformazione del capitale umano, perché senza non si va. Certo, anche perché di fronte a problemi nuovi non bisogna usare le ricette vecchie, bisogna cercare di usare delle ricette, delle soluzioni nuove, e in questo appunto la formazione è fondamentale. Possiamo forse ricordare qualche titolo bello ben fatto, bello, buono e ben fatto: crisi, consumo e comunicazione, la formazione tra realtà e possibilità, come finanziare l'impresa, quindi anche cose molto concrete. Quindi una collana che si rivolge all'impresa, si rivolge al sistema economico, cercando di offrire qualche possibilità, perché poi il mondo è fatto anche di opportunità. Assolutamente. La crisi, si dice certo. Spesso, anche se certo. Forse un po' per esorcizzare la certo. crisi, però non è solo la crisi, è anche uno scenario nuovo certo. in cui si possono trovare delle opportunità anche in un settore difficile come quello dell'editoria. Infatti. Non a caso, se non ricordo male questo dato, il 30% delle imprese italiane in una situazione di profondissima crisi, come abbiamo detto anche prima, ha comunque tassi di sviluppo positivi. Certo. Questo vuol dire che appunto ci sono opportunità, non soltanto problemi. Ecco, l'editoria ha, come abbiamo visto, molti problemi di fronte alla realtà attuale. Potremmo parlare della distribuzione, potremmo parlare dei prezzi, potremmo parlare della lettura, potremmo parlare di tante cose. Se lei dovesse individuare un tema, una priorità da affrontare nel sistema editoriale, su cosa punterebbe il dito? Guardi, certamente il tema del diritto d'autore. Non esiste attività editoriale senza tutela del diritto d'autore. Ho voluto indicare Mozart anche per questo motivo. Mozart muore nel 91, 2 anni prima l'approvazione della prima legge organica continentale sul diritto d'autore da parte dell'Assemblea nazionale francese, quindi periodo rivoluzionario, immaginiamoci quanti problemi c'erano l'Assemblea nazionale francese approva la prima legge organica sul diritto d'autore. Questo perché? Perché si riconosce che non c'è possibilità nella nuova epoca di garantire la creatività degli autori, degli artisti, dei letterati, dei musicisti e così via, se non si fissano i paletti per la remunerazione di questo lavoro. Se questo lavoro non viene remunerato dal pubblico, non viene remunerato dal mercato, non può essere remunerato che dal principe. Ora, il principe può essere Giulio II e quindi va benissimo, abbiamo la Cappella Sistina. Il principe può anche essere il principe vescovo di Colloredo che cacciò Mozart, sì, e Mozart si ritrovò a doversi mantenere come primo musicista borghese, nel senso moderno del termine, senza però avere le tutele del diritto d'autore. Ecco, la pirateria c'è sempre stata, le copie abusive sono sempre state, però questa realtà tecnologica avanzata rende molto più facile purtroppo la diffusione di copie pirata, di libri appunto magari presi senza pagarli. Certo, assolutamente. In questo devo dire, sottovalutando in modo enorme il ruolo dell'editore, il ruolo dell'autore e la necessità appunto di garantire un'equa remunerazione, una giusta remunerazione per chi fa questo lavoro. Un mondo senza editori potrebbe non essere un mondo senza autori, ma sarebbe sicuramente, a mio avviso, un mondo più povero. La funzione dell'editore è anche nel nuovo contesto economico, tecnologico che si è determinato negli ultimi anni, a mio avviso, di fondamentale importanza come soggetto di selezione, di filtro, di stimolo, di indicazione, di indirizzo all'interno di un grande oceano nel quale il singolo lettore, abbandonato a se stesso, sicuramente si perderebbe e annegherebbe. Ecco, in questa prospettiva è importante una coscienza collettiva proprio dell'importanza di una realtà come questa, sì, della difesa del diritto d'autore. È importante anche una coscienza del legislatore di fare delle leggi che siano adeguate a punire, a evitare la pirateria. È un fenomeno molto diffuso, la pirateria. In che settore particolarmente? Guardi, per quanto riguarda il nostro settore accademico professionale, l'impatto è assolutamente devastante ed è andato negli ultimi anni, nonostante gli sforzi condotti dall'associazione editori, dai nostri colleghi e da me stesso in prima persona per molti periodi, è andato aumentando in misura esponenziale. Questo mette davvero a rischio non solo la esistenza, la sussistenza di un comparto economico che pure ha un suo rilievo, una sua importanza, ha un effetto di impoverimento molto pesante rispetto ai cicli formativi. Ora faccio un esempio banale, se si vuole, ma Se traduco un'opera importante, fondamentale, che so, nell'ambito della politica internazionale e spendendo parecchi quattrini, perché certo, sono cose che costano, e poi nell'arco di 4-5 anni non rientro dall'investimento, sicuramente non faccio la nuova edizione. Che nel frattempo è uscita sui mercati internazionali. Il mercato italiano resta quindi privo, i lettori italiani, gli studiosi, gli studenti italiani restano quindi privi di strumenti fondamentali di conoscenza, di approfondimento, di formazione. Certo, ci sono sempre le slide. Sì, che sono un'altra cosa, indubbiamente. Esatto. Ecco, nel sistema editoriale, qual è il rapporto tra un medio editore come sì, lei e i grandi editori? Ci sono ancora i grandi editori? Ma guardi, sì, i grandi editori ci sono ancora, quel che negli ultimi anni, decenni vorrei dire, in realtà è venuto un po' a mancare la fascia intermedia di editori, cioè abbiamo assistito a un processo di polarizzazione molto accentuato, da una parte pochi editori, grandi naturalmente per il mercato domestico, certo, a livello internazionale. Certamente. L'Italia è un mercato dove si pratica, si parla in italiano, si legge in italiano e quindi certo, più che si legge poco si in legge italiano, poco in italiano, 60 milioni certo, nel nostro mercato. Anche se poi l'emigrazione di questo paese è stata molto molto elevata, per cui si calcola che siano circa 200 milioni le persone interessate. Italofone. Esatto, o comunque interessate certo, ad approfondire. Certo. Sì, i grandi ci sono sicuramente. Ci sono i grandi, ci sono i piccoli e i micro. È venuta a mancare questa fascia intermedia, secondo me questo è un fenomeno piuttosto preoccupante, di medi editori che sostanzialmente garantivano un processo osmotico tra le varie parti della catena editoriale. Vedo con una certa preoccupazione da questo punto di vista il crescere di forme di integrazione verticale, che io chiamo, forse esagerando, privatizzazioni delle filiere. Ciascuna casa editrice si crea i propri strumenti di distribuzione. E questo non so quanto positivo sia per l'allargamento del mercato. Ecco, siamo in conclusione. Se volesse dire una parola per i giovani, per dire ai giovani perché il libro merita di essere comprato, ma anche letto. Ma credo che sia uno strumento di formazione fondamentale, essenziale, perché costringe alla riflessione, obbliga a riflettere. Obbliga a riflettere su quanto si legge, obbliga a riflettere anche su se stessi in definitiva, quindi credo che sia nelle forme in cui si può presentare digitale, su certo, carta o altro sia. Leggetelo come volete, come ma volete. Leggetelo. Esattamente, esattamente. Questo possiamo concludere così, anche sul ricordando appunto la gioia di Mozart per tante altre cose, anche la lettura può essere una gioia, può essere qualcosa assolutamente che, sì, che assolutamente ci riempie sì, anche di, diciamo, di speranza, sì, andando un po' in avanti, cercando di vedere appunto anche nelle esperienze altrui delle soluzioni possibili. Certo. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Grazie ad Angelo Guerini, fondatore ed editore di Guerini e Associati, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, per quanto resta buona domenica, ma soprattutto buon Natale.